E la curiera che la va su e giù, e l'autista che n'ha proprio, e la sciura con ti bei tet, e la duneta che ha sbagliato il bigliet. Sempre la solita tiritera, tu ci sei la curiera. Passeggeri, arriva donde su, la sciura rosa con tensione, e la turista, la capisnagot, e i tusaner che fan troccasot. Ma guarda te che fera, tu ci sei la corriera. Al preve che va sul taggio, è un operari che va sul tas, e verti port e sarai port, e l'autista che l'estrag mort sul dinosauro di lamiera, tu ci sei la corriera. E la strada che è la tua mam, o la strada che è la tua tusa, la strada che è un toc de pan, strada che la fusa, quella strada che è una ciulada, e quella strada che è una bella tusa. E la corriera che la va su e giù, e il controllur con la giacca blu, c'ha pa controlla che il bigliet, alla donna con ti bei tet. Oh signorina buonasera, tu ci sei la corriera. Guarda la strada, guarda specet, porca miseria che razza de te, se tu un autista pensa a guida, che il controllur le già modre a controlla. Ma guarda che atmosfera, tu ci sei la corriera. E la strada che è la tua mam, o la strada che è la tua tusam, la strada che è un toc de pan, strada che la fusa, quella strada che è una ciulada, e quella strada che è una bella tusa. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Sempre una solita tiritera, tu ci sei la corriera.